voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Rimming, lip sticking, dick dodging, blog clogging, fuck flogging, slut snogging, couch surfing, bridge burning, dildoing, dicks burning, cocking, meat packing, bushwhacking, lip smacking, butt plugging, crack rimming, lip sticking, dick dodging, blog clogging, fuck flogging, slut snogging, couch surfing, bridge burning, bong burning, useless band. Grabbing bitch, slapping friend, fucking cam, toeing, dildoing, dick, spreading, cock, earning. Useless band. Useless band. Useless band. Useless band. There's party time. Couch tripping, crotch grabbing, bitch slapping, friend fucking, cross dressing, coke sniffing, beer swilling, pill popping, bar balling, booty shaking, snot spilling, tip tucking back, stabbing ass, looking bong, banging couch tripping, crotch grabbing, bitch slapping, friend fucking, cross dressing, coke sniffing, beer swilling, pill popping, bar balling, booty shaking, snot spilling, cam toeing, dildoing, dick spreading, cock getting, meat packing, bush whacking, lip smacking, butt plugging, crack burning, lips sticking, dick dodging, bar popping, fuck fucking, slut snogging, couch tripping, bridge burning, cam toeing, dildoing, dick spreading, cock getting, meat packing, bush whacking, lip smacking, butt plugging, crack burning, lips sticking, dick dodging, bar popping, fuck fucking, slut snogging, couch tripping, bridge burning. Benvenuti nella seconda parte di Eclettica, ultimo volume della settimana in compagnia di Giulio Caperdoni, dopo che la prima parte si era chiusa con i Bright Eyes. Questa seconda invece si è aperta con un gruppo che ha un nome che sicuramente incuriosisce. Non so se ricordate, già in settimana vi avevo parlato di quanto può essere importante il nome di un gruppo per avvicinarsi incuriositi. Adesso, e l'avevo fatto in occasione della trasmissione per la prima volta e sicuramente non l'unica, dei Cajun Dance Party. La stessa curiosità viene suscitata dal nome Lesbians on Ecstasy, formazione di Montreal che sicuramente ha un nome che esercita un forte richiamo. Loro sono arrivati al secondo disco We Know You Know per la Alien 8 in uscita in questo mese di maggio, in cui confermano la formula tra electro, techno e punk rock. Il brano che io ho scelto per farvele conoscere è Party Time e Woman's Love. Thank you. once he was dressed. He looked down on her. She wondered how far he had traveled. Entrambi gli uomini sulla stretta pista in terra battuta indossavano pantaloni e camicia bianchi, di cotone. In piedi, accanto al Piper Warrior, aspettavano che la donna consegnasse la valigetta d'alluminio chiusa a chiave. Cass la porse al più robusto dei due e li guardò andare verso la Mercedes-Benz blu che scintillava al sole sul bordo del campo di grano turco. Le portiere sbatterono nel silenzio e poi ci fu soltanto il rumore degli insetti tra gli alberi vicini, stentati e macilenti. Questo era l'incipit di Money di Ed McBain. Oh, Black Mountain, try to spit in your face. Oh, Black Mountain, try to spit in your face. Baby's cropping whiskey, oh, she's practicing bass. On old Black Mountain, mean as they can be. Oh, Black Mountain, mean as they can be. They use gunpowder just to sweeten the tea. Had a girl on Black Mountain, sweetest girl in town. Had a girl on Black Mountain, sweetest girl in town. But she met a sweet black man and then she threw me down. Well, old Black Mountain can't keep a man in jail. back mountain, can't keep a man in jail. Jury call him guilty, judge will grant him bail. Come back to Black Mountain, need my razor and my gun. Come back to Black Mountain, need my razor and my gun. Gonna cut her if she stands and shoot her if she runs. Like I was saying, shrimp is the fruit of the sea. You can barbecue it, boil it, broil it, bake it, saute it. There's shrimp kebabs, shrimp creole, shrimp gumbo, pan fried, deep fried, stir fried. There's pineapple shrimp, lemon shrimp, coconut shrimp, pepper shrimp, shrimp soup, shrimp stew, shrimp salad, shrimp and potatoes, shrimp burger, shrimp sandwich. That's about it. Leaders get it. subito prima della cover di Forever Young appena ascoltata, ho avuto modo di mantenere la promessa fatta ieri, ovvero sia di far ascoltare Nick Drake all'interno di Eclettica. Il motivo mi è dato dalla pubblicazione, aggiungerei ennesima pubblicazione, di un'antologia di inediti. Family Tree è il titolo di questa antologia di inediti, che uscirà il 19 di giugno. Ci sono un buon numero di tracce, se non ho contato male dovrebbero essere in tutto 28, che risalgono al periodo precedente al suo debutto con Five Leaves Left, una serie di tracce nella maggior parte non uscite dalla penna di Nick Drake ma di altri autori, se non invece brani tradizionali, che sono stati registrati su un suo registratore portatile, quindi molto molto lo-fi. Black Mountain Blues è quella che vi siete ascoltati in Eclettica, che fra i suoi tanti interpreti in passato ha avuto anche Janis Joplin. Meglio non dire niente a nessuno, tranne che a Dio. La mamma ne morirebbe. Dio mio, ho 14 anni. Sono sempre stata una brava bambina. Forse puoi darmi un segno per farmi capire che cosa mi sta succedendo. La primavera scorsa, dopo la nascita del piccolo Lucius, li ho sentiti trafficare. Lui la tirava per il braccio. Lei diceva, è troppo presto. Fonso, non sto bene. Alla fine l'ha lasciata andare. Passa una settimana e lui la tira ancora per il braccio. Lei dice, no, non voglio. Non vedi che sono già mezza morta e con tutti questi bambini? Questo era l'incipit del Colore Viola di Alice Walker. I think I need you to stay. Can't be far. It can't. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 34, volume numero 5. Indice: Kama, Tinari Wen, Fridge, This Harmony, The Blow, Cherry Overdrive, Bright Eyes, Lesbians on Ecstasy, Tar Water, Nick Drake, Youth Group, Lavender Diamond, Windmill, I Like Trains.